Lì a Milano, perché voi siete a Milano, noi siamo sulla Luna. Com'è il tempo là? Caldo, cazzo. Lui ce l'ha un ventilatore, io ce l'ho uno, però non sento niente. Insomma, di stare con voi stasera. Grazie per essere venuti. Questo è il teatro.